quella luce che si perde negli occhi tuoi, due occhi che al mondo han guardato con incanto, quell'incanto che ai tuoi occhi ha donato un'anima profonda come il mare, una lacrima sul viso è il tempo di un sorriso, quella luce dai tuoi occhi si accende in me, sorrido agli eventi, sorprendo i miei sensi, we'll be right back.